supermercato e ti sono mangiato tutto. Ma noi ci siamo mangiati via all'anica. Ora mi mette a dare tre o quattro litri di bucani e te la aumentano a tre bus. E allora, per quelli sono via restato a tutti una bomba in busciacca, l'avevo buttato tutto. Ma quando mai non vede la finanza, che non fa nulla in confronto anche a niente che speculando così. Non mai che i finanzieri non hanno su cappelle e non lo vedono che si sono mangiati diversamente l'anche. Tutto un complotto è... A guadagnare, no. Le capi buone siamo sempre noi. Vedi, la pensione sarà aumentata 1,2 e 50 euro in aumento. Ma non ho visto una massa di farabutti. Poi sono aumentato, e lì si sono aumentato. Allora, non aumento, di DAS, perché c'è stata una DAS, non bella che una DAS, ma DAS però. Chi c'è un furto, come ti dici, furto... un furto a norma di legge. Autorizzato. Esatto. Comunque. Ui, allora non c'è nessuno, ma le antenne ve ne ha buttato il vento. Tutti in terra sono antenne. Eccolo qua. L'antenna del vicino è volata. Passate a Babbo Natale, passate. No, vedi lì. A vedi se viene la trattata, da ieri a Frasica. Ma... io mi gioco Biden, che su motori a 52, fra no, 59 e più bello è vivi. A 52 c'è quel Risley che si apparra, anzi Basini Pinta la farrasse. Ah, lo Risling è a 52, pensavo che erano i minatori o i cercatori di gemme. No. No, beh, vedi. Vabbè. No, invece lui è bello, ma... diciamo che... qualche cosa, secondo una macchina che vede, ti dà esperienza. Allora, se verrà precisa la buia, e rivede smontando e vende, un po' di esperienza me la fai. Sì. Ma poi ti intriga a vedere anche cosa sto combinando. Infatti. Ma che ne vedi però, certo. Ma bella davvero, eh? Eia, e fanno vedere di belle, di tutti i maneri. Uia. Quindi, nessuno all'orizzonte. Alle, al canale 12. C'è San Figo, quella Sinara, c'è nessuno ascolto, ora. Tu lo dici, non c'è nessuno. No. Vabbè, tu lo dici, non c'è nessuno, altro che sono stamattina qua io seduto, combattendo. Davvero? Buongiorno. Buongiorno, signore. Signore dei cieli, fa. No, ero anche nell'altro canale con Gavino poc'anzi. Adesso non stavo sconosciuto nessuno. E in questo canale c'erano i tedeschi, penso. Stavano bailottando, ho abbassato il volume. Capo. E quelli usano lo stesso canale, usano in FM. Arrivano anche a porti quelli. Perché quelli lì al posto di usare una caramella ne usano 10. Sono di più, è vero. E vabbè, comunque. Anche loro, lasciali giocare, se non c'è gusto. Vabbè. Lasciamoli giocare anche a loro. Va bene, Giovanni. E quindi Tino, abbiamo fatto i barri di buco al russo. Buona lì, so. No. Oggi, se la verità, non so neanche cosa c'è, perché Oggi è il compleanno di mia madre, quindi sto organizzando tutto quanto lì, sono a rimorchio. Andava già su così vedi. E va bene così, adesso 5 minuti mi stacco che sto facendo una cosa. E già sono accesa la radio, là. Va bene, va bene. Io invece qua devo abbassare il cardio, che è troppo alto. Di tanto quando scalda questa diventa prepotente. Cosa? Scusa che forse abbiamo schiacciato insieme. No, stavo dicendo che ho dovuto abbassare il carrier, Fran, perché sennò questa qua ogni tanto quando si scalda diventa prepotente, capito? E si alza troppo di fatto e di tutto. Vecchio. Ho detto, Gavi non si è fatto più sentire né ieri né oggi. Sì, siamo sentiti poco fa in PMR, però aveva gente a casa, quindi ma ci sentivamo più tardi. Allora hai giustificato. No, io ho fatto un paio di giorni di relax, perché stavo facendo 12 ore, 11 ore di lavoro tra una cosa e l'altra, e quindi ero stanco, non sono entrato neanche io in radio. Vabbè, a volte ieri c'erano quasi tutto il giorno, c'era Pomponio, tutti quelli del canale 10. E mi sono messo a ascoltare lì. Vabbè. Ma io sono un po' senza sentirle, dai. A volte quando entrano qua, però diciamo la verità che quando si è stanchi fra. Non si è avuto neanche di accendere la radio. Quello è giusto. Quello è giusto, perché tutti questi lavora, quando arriva a stanco non pensa alla radio. Poi vabbè, quando fai dei lavori impegnativi, perché ci sono anche quelli di Cagliari, stanno facendo delle soldature per poterla mettere in pressione, capito? Tubazione d'acqua? Sì, sempre a Banova. Ma di che rinnovo stanno facendo? Niente, no? No, non penso. Ce ne sta in mare l'acqua? Lascia perdere. Dai, che... quando vai, no? A posto di buttarla la roba, poi a te te la tirizza, che te la vasi a poco a poco. È vero, ma voi ancora un giorno sì un giorno siete così, oppure ce l'avete tutti i giorni ora? No, ce l'abbiamo tutti i giorni, e ci mancherebbe altro che ce l'avesse ancora così. Vabbè, non ho sentito il collega, che anche lui delle tue parti, la volta scorsa mi stava dicendo che era così, un giorno sì, un giorno no. Però ho visto, ha detto un cavolato, è da prima di nadare che è così. No, non l'ho sentito detto, non l'ho sentito, e credevo che era ancora così. No, ce l'hanno lasciata sempre a te, se l'ho lasciato. Perché quello è un trucco, perché quando loro te la staccano, poi te la riaprono, tu consumi di più, e consumi una volta in due cose, in acqua e in corrente. E perché questo, scusa? E perché ti devi riempire di nuovo i serbatoi l'indomani? E cosa c'entra? E se prima che si sei bucato. E pare che ci sei capelli che poi va a tenere la femma. No, vabbè, ma tu hai consumato la prima volta quando l'hai riempita, ok? Se poi la consumi e la riempi piano piano, il consumo è minimo ed è va bene. Sarà grosso il consumo quando si abbasserà tutto il serbatoio, che lo devi riempire, ma la quantità è la stessa. E l'aria che ti mandano i contatori non è nulla. Ah, quell'aria non lo so se ti arriva aria a te o ti arriva direttamente l'acqua, ma non penso che l'aria faccia girare il coso, cioè Se la mandi forzata sì, però se la mandi piano piano no. Io ho visto il contattore girare prima di arrivare l'acqua. Ho visto il contattore girare, poi si gira, vuol dire che è contento. Sì, tanto è vero che, ma i contattori piccoli parlo, i contattori piccoli, se li vuoi tornare indietro, c'è un trucco semplice, semplice, nello smonti, chiudi l'acqua, ci vogliono due saracinesche, una da una parte e dall'altra, chiudi l'acqua, ne smonti il contattore, lo giri al contrario, gli mandi l'acqua, l'aria e te la zera, quello non è, è semplice, semplice. Cosa fa? Diciamo la verità che loro due saracinesche piccole non te le montano sia a valle che a monte, capito? Te le montano direttamente quando devono fare degli interventi, chiudono l'acqua, capito? Al momento, se no quindi l'acqua è diretta nel contattore tuo. Capo, c'è qualcuno che ti stava soframodulando, chi è? Ah, mi devo tirare. Chi è che vuole entrare? Ma non penso che mi stanno sovrannulando, a meno che è nella zona tua, guarda un po', perché qua non si permettono. Perché stavi uscendo tutto a tratte, stavi uscendo, è come ti stiano superando, là, una accavallatura di importante. No, c'è uno, allora, mi si è abbassato nuovamente il watt, quindi ero a 1-2 watt. Pensavo che c'era qualcuno là, che uscivi a pezzi, uscivi. Prova adesso, vediamo un po' se riusciamo. Adesso è tirata a balla. Capo, sì. Ma già va bene adesso. Ebbene sì. E oggi come è andato? Ogni tanto un colpo d'acqua. Vabbè, già ha messo l'acqua da ieri. Domani speriamo che non piova, sennò. Sì, non facciamo altro che lavorare sul fango, porca miseria. Quei mesi sul fango è un casino, è un casino. Non solo coi mesi, anche senza. No, a me mi dispiace per gli altri, perché sono sempre in mezzo al fango, sembra che siamo. Io bene o male, una volta che salgo sul mezzo. Arrivederci, grazie, se ne parliamo da voi le 4:30. Ma che ci deve mettere i piedi nel fango è un casino, capita, lavorare così è brutto. E allora, andare, fra, mi avvicino da mamma, dai, così almeno l'aiuto a fare qualcosa che sono in fase di preparazione da sola. Va bene Tino, dai, ci sentiamo, buon pranzo, buon tutto, dai, ce la riascoltiamo magari stasera se è possibile. Ciao Tino. Ciao, saluto agli altri. Ciao.